solo per il vintage, capito? Un'altra mantova che ce l'ho messa a fianco, e faccio una mantova per un 140, perché l'altro ho già venduto, e l'altra mantova per i baracchini, capito? Senza commutatore, antenne dirette, buco. Ah, ho capito adesso. Ho capito. C'è l'altra mantova. Fai così, fai. Sì, ce l'ho revisionata, già pronta a piazzare, già tarata e tutto, l'avevo anche provata, già tarata e tutto, io vi tolgo quell'antenna che c'è VHF e quel palo ci metto una mantova che è abbastanza robusta, bassa, un paio di metri, 2-3 metri, insomma, dal piano del tetto, metto qualche tirantino e qualche volta però lo aggancio lì. E lì lo stesso c'era Camilla, capito? Ho capito, ma fai bene comunque, appunto, questa sera. La piazza c'è una Samantha, ma in chi mi ha un po' di strano, come se il fuoco tira a volte il vento. A me non lo sai che c'è che resiste. Allora, cosa devo piazzare? No, ce l'ho, non le compro un tenne. Ce l'ho, gli altri li ho tutti tolti. A 5 elementi ce l'ho dentro in mansarda, smontata. Mentre a 3 elementi HF quella l'ho venduta. Ho venduto quella, il rotore, contro il box, tutte le radio. No, non c'ho più niente, me ne ha fatti nulla. Non c'ho manco VU, manco BMR, vado in VU. Eliminato anche quel cavo, c'è solo l'antenna attaccata, ma il cavo l'ho tolto, l'ho staccato proprio l'altro giorno che ho fatto la base, ho rimesso la base su acqua, capito? Ho capito. Va bene così, a tu. La radio già la faccio lo stesso, 27, va bene così. Cappa l'orologio, ma cosa si fa? 10:20 solo. Siamo partiti da Goravini a Londra, che ha finito il primo tempo, 2-0. È Filippo, è Filippo. Ah, non lo vedo, esce dove se si vede. Sì, è collegato sotto la televisione con la copertina, già drumido. Bellino. Allora, ho portato alle 8 e 10, oggi ho provato un bel caldo, 8 e un quarto. Fate i bisognini. L'ho portato su, c'è l'aria a cena, l'ho tutto pulito, trovo il salviettino, tutto profumato, pigiamino e a nanna. Già trovavo in bocca, via. Ci avevo dormito come in Tesciugani, mamma mia, per carità. Ma adesso tu immaginati, è già addormentato, sono le 10:20. Si libesa, si sveglia e si alza, perché quando si sveglia si alza e vuole uscire. 10:15, 10, 10:30. Papà, io non capo che c'è un cane. E se trovo un bene, allucinante. Dorme un bel. Lui adesso è già addormentato, poi perché sta sempre con le orecchie tese, ascolta molto, capito? Però non le dà fastidio la televisione. E la mattina ci invece alle 10:30. Guarda, l'altro giorno ho fatto fatica a farlo alzare, stava piovendo di rotto, c'era freddo, un po' di freddo, e lui lo sente, capite? No, io non riesco, sta piovendo, sta. Alle 11 sono riuscito a farla alzare, sennò era sempre bucato, non ci voleva alzare, no? Invece quando non piove, che c'è il sole, alle 9:30 è già in piedi, chi può andare? Sono fiorito, adesso quando comincia il caldo cosa fai? Forse un po' al mare, a quarto pettine, che lì ti portano i cani, o non ti piace buttarlo? No, non lo porto io perché non ci vado io al mare col cane, lo porto l'aria col ragazzo, capito? Io no, io vabbè, poi l'estate sempre in campagna, quindi non ci vado molto al mare io, Antur, no, non mi interessa manco il mare più, poi. No, io già vado, già. A me mi piace. Lo so, però in campagna c'è tutto, quindi al mare poco ci va, non so, ci ho fatto 3 mesi e va bene così, non c'è problema. No, lo porta l'aria, lo portano anche d'inverno, però me, quando sono giornate belle che non piove, che non c'è molto freddo, capito? La domenica mattina per esempio lo portano in spiaggia, si diguglieggia, però non si avvicina all'acqua, capito? Non ha paura dell'acqua quando lo lavi, capito? Ha paura dell'acqua del mare, la vede che va e viene, si avvicina alla riva, però non c'è di buono e bene a moglie, non funziona giù. È l'ompio di Sugranica, è un bell'ompio. No, a molti cani glielo devi fare tu, glielo devi, non si avvicineggiano, no. No, lui non la teme all'acqua, perché quando lo porto da Monica lì in via Pascoli si dromme quando urlava, e anche quando l'asciuga che le attacca al fondo, quello grande, no, glielo punta sopra. Io quando vado vedo il drummillo a ritirare. No, non teme, l'acqua non la teme. Però il mare sì, il mare vedi che c'è goccia, che si muove, a bettorra, no? Capito? Allora non si avvicina, sta lì vicino alla riva ma non entra in acqua. A volte Mario le butta la pallina, no? Non c'è pallini che pesci, capito? Non ci va a prenderla, no? Invece in spiaggia se gliela butti va, la prende, si ragubaccheggia, la mette sotto la sabbia, poi va, la scappa di nuovo e se la riprende, gioca un bel, però nell'acqua non ci va. L'ho chiarito ai sugani. Non fiorito. Monellino. Monellino giù. Aspetta, vado a bere anche tu. Via. Andiamo bene, Memo. Troppo. Via, aspetta, tu che sto sistemando un computer. E sto lavorando stamattina, a me tocca adesso lavorare. No, vabbè, travaglio è lui. Eccomi, Zianto, sono qui, Zianto. Oh, claro. Stamattina, vabbè, tramite Facebook, no? Insomma, ti facciamo un po' di preventivi per quanto riguarda il dentista. Ristorazio. Stamattina avevo chiamato questo tipo di Sassari, si chiama Salvatore, vabbè. Comunque lui, anni 70, aveva il nominativo Sparviero. Non lo comprendo lui. Cazzo, non mi comprendi, Clabbo. Ma ti devo regalare l'Ampiphone. No, hai parlato troppo in fretta. Anni 70, ho capito. Troppo in fretta, Cla. Allora, stamattina mi ha contattato, cioè l'ho chiamato io perché mi ha dato il numero. Questo, diciamo che questo qua prende gli appunti, ecco, dei clienti. Di uno studio dentistico, però vabbè, questo tipo è di Sassari e sono arrivato al discorso dei baracchini, no? Ho detto che io avevo il baracchino e lui era lo stesso, un CB anni 70 e si chiamava Sparviero a Sassari, a Sacro Cuore. Gli anni 70 può essere anche, io sono entrato nel 74 a Porto Torres, già mi chiamavo Claudio Sparviero, poi sono arrivato a Sassari, nell'85 sempre Sparviero sono, negli anni 70 magari non lo so, io non c'ero negli anni 70, io nel 74 sono entrato, poi parlavo da Porto Torres io. Boh, così mi ha detto, a quanto ho capito è anche un OM, solo che poi ha mollato il dubbio, boh. Dice che faceva, mi ha fatto un elenco di baracchini, poi vabbè di qualche radio se non mi ricordo, boh, vabbè. Comunque c'ho la registrazione. E come si chiama di nome, almeno il nome? Salvatore si chiama lui. Salvatore? Io di Salvatore ne conosco un bel, qualcuno sì, è anche l'animatore, ma non è così anziano, ma questo è grande allora, di età. Boh, non lo so, mi sa che questo qua ha più di 60 anni, penso 65-66 anni. 65-66 anni, allora... Vai, se mi dici il cognome, però c'è pure che lo conosco, non so, però non mi risulta a me che a Sassari ci fosse un altro Sparviero. C'era Sparviero 2 che era Mario Tiana, che lavorava la TNT Tracco, lo ha agito una volta, due volte, la terza volta ce n'era bugato mai forza. La terza volta ne era bugato mai forza Sparviero, capito? Perché c'era scritto nel furgone, Sparviero. E tutti dice, mi vedi, cazzo ti ho visto Ottana, ti ho visto lì, ti ho visto mamma, eccetera. Mi dice, ma niente, tu non c'era scritto Sparviero nel furgone, no, non è scritto Sparviero nel furgone, no, c'è non c'ho pure zingaro. Va bene, sto controllando un computer qua, adesso te lo imposto, vediamo un po' cosa dici. E io mi ho iniziato il secondo tempo, ma vediamo. Pronto! Un po' di casino, sta un sito apparecchio. Perché? È un po' di QRM, ma è che ci rubiamo un po' di più in tutti. E vedrai già ti bacia il QRM. Guarda, io c'ho QRM a Santiago Zero. Appena appena ogni tanto oscilla a uno, ma proprio scarso scarso. Vediamo un poco, si schirriccia. Ia. Io bel baracchino così a tutti. Anche i miei, infatti, è uscita. L'87 non è così, no, non è via di casino, lo sai. No, adesso l'avete usato. Il 550 dalla Intec. Ma esce bene questo altro. Non posso dire niente a questa radio. Veramente esce molto molto bene. No, questa non la darò mai. Ce l'ho 10 anni, ce l'ho. E quando... Cioè, l'avevo presa dopo qualche anno che avevo ricominciato a modulare. Esce bene. No, questa non si tocca, questa rimane a casa. Finché sono vivo io rimane a casa. Poi? Sta vabbè. Ottima bella truppa. Cappa. Io vado dopo sopra. Devo fare. E via. Cappa cappa. Io varò. Secondo me, se va in quella scala che ho visto, minimo 9.30. Va, se va. Siamo abbattendo, c'è radio, una bufagna. Io sono a 20 watt, ti ho detto. 20 watt modulati sono 60, 70. Che capa. Ma chi doveva aggiungere un qualche cosa in più, Se lo metti anche questo è così. Non so, già riconosco, hai detto. Mi è arrivata una cultura anche se radio. Non lo so. Per quello che va usato con la testa, non con i piedi. Capito? Sto radio vanno usate 20 watt e va benissimo. E poi già fa tutto lui, non c'è bisogno di sta smanettendo, no? Capito? E già lo so. C'è dei picchi di modulazione allucinante. Lavora, già va bene. Va bene, sì. Oh, yeah. Oh, cra! Io mi zigoco, che sono un bel stanco. Dai, buonanotte a tutti, a tutti gli ascoltoni pure. Ciao, io chiudo perché mi sono dormendo in piedi. Ciao. Ciao amori, ciao. E io sto guardando la partita qua, quindi sono qua, dai, ci sentiamo. Ciao anche Antonello. Sono qua. C'è anche Luca, comunque, un ascolto. Ciao, buon pugno. Beh, ascoltate, Beato, ho provato da quel microfono. Va bene, Antonio. Meglio così, dai. Una capsula che ci fa impazzire. Sono contento che vada di bene. Meglio così. avanti, se c'è qualcun altro nel canale, sto appena entrando io. Stavo cercando proprio un attimo, c'è un programma presso la caserma, ragazzi. Ci sono delle figure in mezzo. Delle ragazze buone. Faccio un maiale. Ma con canotti vai, nicchi nicchi. Sì, si può fare nicchi nicchi in quella caserma, c'hanno. 4 settimane ce la devono fare, maschi e donne sono tutte vicino l'una all'altro, quindi. E io la vedo, lì ci sarà la vedere con quel programma per 4 settimane, cosa vedo? Mi sa che anni fa, di fatto i due simili che ci programma. E allora? Uiaia! Andava cazzo, c'è un freddo! Io già mi chiedo la stufa, ma perché la casa di Giovanna c'è più freddo ancora, c'era. Da primo piano, io ce l'avevo davvero, con questa nebbia che ha fatto, ci andavamo a coso oggi. Di qui, non so se serve che ci sia, ce n'era molta, ma qua vediamo un bel, sembrava di essere a Milano. No, ma qua si sta bene perché questa casa è convegnata, bene, non c'è né caldo né freddo, si sta bene. Ma è meglio così. Vabbè, io ho acceso le fucchiette e gli apparati perché erano avvenite un po' spenti tutti, capito? Ho acceso l'857, l'altro VEU e quello nuovo che avevo comprato, il Codice 4000 e poi gli altri due sono stati spenti, il 3009 cosa, adesso domani li accendo e li faccio girare. Pochettino, sono a bel tempo che siamo fermi e è ora che li faccio funzionare. Capo, bisogna farli funzionare, sì, bisogna farli andare. Uia, Antone, come ho detto, io mi si goffo perché sono stanco, non so come ha già travagliato tutta la vita, quindi non ha più gana. Ciao Antonello, ciao Claudio, ciao Luca, a tutti gli ascoltoni che ci sono qua. Io mi ritiro, buonanotte a tutti. Ciao, anche io rimango in Corexi, dai che mi guardo la partita, già sono qua comunque. Ciao Antonio. Ciao Anto, ci sentiamo alle prossime. Quindi quando ti guardi la partita, boh, Luca, ci sei. Ciao buon poco, già sono qua, dai, che sto controllando il computer io. Vabbè allora, sono contento. Ciao, buon buon a domani, buonanotte, cazzo.